Italia in controluce. Italia in controluce, due edizioni, 6.30, 13.30, i reportage e le inchieste sulla cronaca italiana. Buongiorno da Daniele Biacchessi. Pino Masciari, un imprenditore edile calabrese che decide di denunciare la 'ndrangheta che gli chiede di pagare il 3% dei suoi introiti per poter lavorare. Ora ha fatto uscire il libro Organizzare il coraggio, lo ha intervistato Cristina Carpinelli. Quelli che sentirete in questo speciale di Italia in controluce sono dei passaggi estratti dal libro. Anche se le scatole ci ricordavano che saremmo dovuti partire di lì a poco, quella sera abbiamo cercato di comportarci come al solito, per quanto fosse difficile, anche per non trasmettere ai bambini il peso di quelle ore drammatiche. Era metà ottobre, a Serra, fa freddo in autunno, il riscaldamento era già acceso. Marisa aveva preparato la minestra per la cena e dopo aver mangiato abbiamo messo a letto i bambini, in modo che quando fosse stata l'ora sarebbero già stati addormentati, sperando che in quel modo potessero sentire più lieve il distacco. L'immagine di quello che eravamo si fissava in quei piccoli dettagli che fanno la quotidianità di una famiglia. I piatti sul tavolo, la minestra dei bambini, la luce di casa accesa, la copia della Gazzetta del Sud del 17 ottobre, che per strani intrecci abbiamo ritrovato negli armadi poco tempo fa. Tutto si è fermato lì. La nostra vita era congelata in quel fotogramma. Quando verso le 11 bussarono alla porta, aprii e vidi il maresciallo, accompagnato da altri 7 carabinieri. Li conoscevo tutti e li guardavo. Erano entusiasti, motivati, mi rassicuravano, dicevano «Sia tranquillo, vedrà che la sua scelta sarà di incoraggiamento per altri. Denunceranno anche loro, servirà a rompere il silenzio, puliremo anche i muri di questo paese». Parcheggiarono il furgone proprio davanti al portone di casa, con i portelloni aperti, e in una ventina di minuti caricarono tutto. Io, per motivi di sicurezza, dovevo rimanere in casa. Marisa uscì per ultima, mentre io sistemavo le scatole. Mi ricordo di lei con i bambini in braccio, stretti stretti, e i carabinieri che chiudono la porta. Un amico, l'unico, che sapeva, venne a salutarmi. Non gli sembrava possibile che fossimo arrivati davvero a quel momento. Eppure eravamo lì, non c'era altro da fare che partire. Sono un imprenditore calabrese e provengo da una famiglia di imprenditori. Di conseguenza, con naturalezza e normalità, ho continuato a fare quello che faceva mio padre. Io ho voluto entrare nella pubblica amministrazione, gli appalti pubblici. Forse questo è stato un errore che ho pagato un prezzo molto salato. Negli anni 70-80 l'andrangheta faceva il suo esordio definitivo e visibile nel Serrese. C'erano i primi segnali, bombe, attentati, controllo sulle aziende che lavoravano sul territorio. Quanti erano i casi di minaccia agli imprenditori locali, le richieste di soldi o i sequestri lampo? Bombe, intimidazioni, proiettili e anche morti ammazzati. Questo clima era la normalità nella vita dei calabresi. Non si trattava dell'arrivo dal nulla di un potere forte delinquenziale giunto da chissà dove per sovvertire uno stato di fatto. Non era così, perché semplicemente lo Stato non aveva mai messo piede davvero sul territorio. È il loro obiettivo. Il loro obiettivo è quello di avere, ecco, di comandare, di avere quella potenza, quella forza bruta di dire noi siamo i padroni e possiamo fare. Ecco che lo prendono di mira un imprenditore commerciante, ecco, quindi prima con maniere molto garbate chiedendo lavoro, un'assunzione, poi piano piano, ecco, hanno qualche amico imprenditore che vuole lavorare con qualche, ecco, per delle forniture, piano piano entrano e uno non se ne accorge neanche, fino a poi, ecco, chiedere per esempio delle costruzioni, chiedere acquisti di beni immobili, al limite poi non te li pagano, ma uno può dire sono dei cattivi pagatori. Io mi sono diventato cattivo con loro quando queste persone, ecco, mi hanno chiesto che devo, per continuare a lavorare, dovevo pagare il 3%. Dinanzi a una richiesta chiara, netta, che non lascia adito a malintesi, dove, ecco, la richiesta è proprio estorsiva, io ho detto no. Basta, non voglio più né darvi lavoro, nulla di tutto ciò. Vi denuncio perché io voglio essere un imprenditore libero, voglio, perché così mi aveva insegnato mio padre, e l'ho fatto con naturalezza, non è che ho fatto qualcosa di eccezionale, con normalità. Mi sono rivolto all'autorità giudiziaria e li ho denunciati. E non è stato facile neanche tutto questo passaggio. Non è stato facile perché era un periodo dove, ecco, tra... solo lei deve pensare che Reggio Calabria, in quei periodi c'erano delle guerre di mafie proprio, dove si contavano i morti, erano centinaia i morti ammazzati per mano della criminalità organizzata. Anche nel mio paese c'era una faida, cosiddetta faida del bosco, quindi gli imprenditori e commercianti eravamo terrorizzati, e sto parlando tra il fine anni 80 e i primi anni 90. Quando ho detto no, mi sono rifiutato, loro, ecco, hanno iniziato a fare di tutto di me, attentati di ogni genere ho subito, che vanno dalle telefonate agli incendi di magazzini, incendi di mezzi, di depositi, ai corpi di lupara sui vari cantieri, attentati, hanno bruciato mezzi, hanno sparato anche a un mio fratello, voglio dire, cosa mi dovevano fare di più? Ma la cosa, la forza brutta ancora di più, peggiore di loro, era quando le istituzioni mi hanno chiesto il 6% per fare cosa? Analogo rifiuto è stato anche per questi soggetti, ecco, potere politico ma più istituzionale. E loro non ti uccidono, loro non ti sparano, loro, ecco, ti mettono in difficoltà, loro controllano l'amministrazione pubblica, le banche. E allora mettono in ginocchio, hanno deciso per la morte civile di un imprenditore, la morte civile di un imprenditore, del fallimento della propria azienda. Io l'ho fatto, come dicevo prima, con naturalezza, ho denunciato. Per denunciare io non pensavo che potesse significare dover fuggire di notte per salvarsi la vita. Questa è stata una tragedia per me. Una tragedia perché quando mi è stata prospettata, dopo aver denunciato, che per salvarmi la mia vita, quella di mia moglie e dei miei due bambini, dovevo ecco, fuggire di notte per potermi salvare la vita alla mia famiglia, senza poter dire ai miei fratelli, loro studiavano, a mia mamma, senza poter dire, vedi che io me ne vado via perché ho denunciato il malaffare, ho denunciato la mafia, l'andrangheta, con le sue corruzioni politiche e istituzionali. È stato qualcosa di brutto. La lotta che io ho fatto non è la lotta per Pino Masciri, è la lotta per i diritti dell'uomo, perché è un mio diritto essere un imprenditore libero in un paese dove essere un imprenditore significa sviluppo di economia. Invece noi vediamo che la nostra Italia arranca sempre perché la corruzione, la burocrazia, l'illegalità, ecco, spesso la sta portando al baratro. Allora io dico, guardando negli occhi i miei figli, dico io, perché voi avete dovuto subire e patire quello che avete fatto? Perché loro non conoscono cosa possa significare una famiglia, cosa significano i nonni. Loro conoscono me, il papà e la mamma, non conoscono altri miei figli. Hanno vissuto per 13 anni la loro vita nell'isolamento più totale. Natale, Pasqua e Capodanno, voglio dire, eravamo noi la famiglia, noi quattro. Tanto dolore, sì, perché io ho fatto tanto soffrire mia mamma, tutte le persone che mi hanno voluto bene l'ho fatto soffrire io. Io non so se era giusto quello che ho fatto per poterle fare soffrire così. Questo sì, me lo spiego sempre e mi porto un magone dentro di me. Poi i miei figli, voglio dire, che adesso capiscono cosa ho fatto io, ma per loro è normale, come lo è stato per me. Era la seconda edizione di Italia in Controluce, il montaggio di Peter Bescapè, l'archivio di tutte le puntate sul nostro sito radio24.it, i gruppi che continuano a crescere, Radio 24, Italia in Controluce su Facebook, su Twitter, in Controluce, la mail controluce@radio24.it, nuove storie, nuove voci, nuove testimonianze domani alle 6.30 su Radio 24.